quando sponde la luna a mare chiara, pure le pesce ci fanno l'amore. S'arrivato nell'onno del mare, capo la brezza cagnano colore, quando sponde la luna a mare chiara. A mare chiara c'è sta una finestra, la passione mia c'è tutto lei. Un garofano attorno, tinta una testa, passa l'acqua per sotto e mormorea, quando sponda la luna a mare chiara. Chi dice che le stelle sono lucente, non sa per sto che cado tiene in fronte. Sti due stelle li sacci sulla mente, dintà lo cuore mio tengo li ponte. Chi dice che le stelle sono lucente? Scedete caro lì che l'aria è dolce, quando mai tanto tempo ci aspettate, nu garofano attorno, tinta una testa, passa l'acqua per sotto e mormorea, quando sponda la luna a mare chiara. Ah, ah, ah, ah. Ascetete, che l'aria è dolce.